Caro Gigi, volevo dedicare Mosca Matta a Dendo, a Dendo, a Dendo, a Dendo, a Dendo. Se dico fermale. Che spesso fa il bastardo. E dirgli che nonostante ciò è impossibile non volergli bene. Becci. DJ Fabri e gli amici di Torino salutano il mitico Gigi D'Agostino e il suo cammino. Voce del Verbo te saluto. Caro Gigi, sono Antonella. Ma chi è? Vorrei dedicare lo sbaglio a Matteo, perché tutti possono sbagliare. È vero, è vero. Vorrei bene, è vero, è vero. Sono Luca da Venezia. Mi puoi fare ascoltare lo sbaglio? Sì, sì. Voglio dedicare lo sbaglio alla mia amata Laura, perché io ho sbagliato nei suoi confronti. Il ragazzo è un po' depresso. Ciao, da Matteo. Ma ciao proprio. Volevo dirti, puoi farmi sentire lo sbaglio? Eh? È troppo bello come brano. Mi metto i brividi. E poi, sbagliando si impara. Ricky da Pisa. Certi problemi non sono un dramma. Ciao da Giamma. Ciao. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire è uno scintaglio. Chi lo sa se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. Caro Gigi, sono Andrea da Reggio. Vorrei dedicare. Che cosa? Angel ad una ragazza che mi ha fatto perdere la testa. Ma chi? Veronica. Sono Cristina da Avola. Sì. Le tue canzoni mi fanno emozionare e sognare. Vabbè, niente. Così vicini che ci sfioriamo. Siamo così lontani che non ci vediamo. Aiuto. Eppure so che tra di noi esiste un legame di quelli che non si spezzano. Ma di chi? Chris. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. Caro Gigi, sono Vito da Gallipoli e vorrei dedicare Again a tutte le ragazze speciali che amano la musica come me. Grazie a Gigi, il poeta, la giornata scorre splendida alla propria meta. Mai perderò il tuo cammino, con la radio alle 6, a me vicino. Edo, da Torino. Oh, già.

Volevo salutare Ale, Luca e Simone e anche Ilenia, la principessina. Caro Gigi, ti seguo sempre e cammino con te. Stupendo. Fammi sentire una canzone. Tipo? Vai. Quella che vuoi. E non so neanche io. Mi fido di te. Sì. Ciao, da piccola Lulu. Dai un po'. Per un'ora, ora, su nuvole infinite, come la fantasia dei sogni che mixi. Corri 79. Gigi, riesci a far amare la dance anche a chi non piace? Sì. Grazie per le bellissime sensazioni che mi regali con le tue canzoni. Coccinella Dance. Ascoltando Del Cammino balla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi Del Cammino. Ascoltando Del Cammino balla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi Del Cammino. Passi Del Cammino. Tu sei Gigi, tu pulmino. Questi passi del cammino sono di Gigi D'Agostino. Caro Gigi, dedico Fly a Biagio e Valeria. Perché? Perché appunto. Per farli volare ancora più in alto. Martina. Vorrei dedicare Fly al mio amore Vittorio. Ah, ma chi è? Oh. Baci. We'll be right back. Cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Alessandro da Latina, Livio da Trento, Tizi di Isola Capo Rizzuto, Gennaro, Giuliana di Alba, Marco R1, Tizi dai Savi, Dario e Nadia, Alessandro di Bergamo, Ale 84. Ma ciao proprio. Sono Alessio da Collegno. Ma chi è? Sono Alessio da Collegno. Aiuto. Puoi dedicare Elisir ai miei amici che sono in macchina con me. Ciao Gigi, sono Antonio da Battipaglia, cinquantenne. La tua musica fa sballare anche me. Sti cazzetti. Gigi, sono Luca da Manziana. Volevo dedicare Noi adesso e poi alla mia ragazza Chiara. Ok. E dirle che la amo e non giochiamo. Che dici? Che ma tutto cosa? Gigi? Eh? Il mio cuore batte a tempo con la tua musica. Ma chi è? Salvatore da Pietrapaola. Le tue canzoni sono state per 7 anni la colonna sonora della mia storia d'amore. E lo saranno sempre. Perché? Perché appunto. Ma niente così. Grazie Gigi. Maurizio da Nuciglia. Francesco, ti amo. Anna Maria. Sì. Un saluto da Guido per Aaron e tutto il Messico. Ma ciao proprio. Roberto, attendo proposta indecente. Silvia. Vai. È rotondo come il mondo, è lucente come la mente, è dolce come il rumore del cuore. Dai, che famo notte. Un saluto sulle note di Welfare alla Pink Lady da Inchia la Pucca. Che dici? Ma che ne so che cazzo. È molto detto. Sono Micina. Puoi dire a Corrado che mi manca da morire? Sì. Che penso sempre a lui, che son persa di lui. Quindi? Sarà difficile dimenticarlo. Questa è difficile questa cosa. Un bacio a tutti da Viola. Feelings are just one way, hanging on to yesterday, thinking what tomorrow's planned for me. Today, I know how to live my life, and I'm gonna do what I wish. Gonna make the world move along with me. I wanna see the sun that shines above the mountains white with snow. Look at the trees, the way they grow, the rivers flowing by. I wanna look into the sky and let my head dwell in the blue. There is no need to follow rules, but only time to play. I wanna feel la la la. Sono Alessandro di Modena. Volevo dire ad Anna che è tutta la mia vita e che senza di lei non vorrei esserci neanche io. Di sicuro. Anna, ti amo da impazzire. Caro Gigi, vorrei dedicare Silence a quella magnifica voce che legge le dediche. Sì. Mi fa impazzire. Sì, sì. Saluti da Arezzo. Now's the time, run to my home. Lead your life into the destiny of love. Walk it hand in hand and there. Hold me tight when I look into your eyes. I've awakened. Time when I look into your eyes. a Ruggero che lo amo da impazzire. Un abbraccio, Africa. Ma chi è? Ciao, sono Carmine. Potete dire a Matilde che la amo per sempre. Devi salutare 41 bis. È un mio amico che è in pericolo per un incidente. Grazie, Gigi. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Caro Gigi, vorrei dedicare Gigi's Love alla mia grande socia Anna Rosa, che mi sorregge da 14 anni. Con lei ho riso, ho pianto e gioito. Quindi? Per tutto questo voglio dirle grazie. Ti voglio un mondo di bene, patatina. Terrina. Battemi mano che sta partendo gas e basso. È vero, è vero. Sono ammalata della tua musica. Che dici? E sono contenta che non ci sia cura. No. Baci da Vanni, da Padova. Caro Gigi, potresti farmi ascoltare Luce? Luce? Ciao. Ciao. Da Ferva e Botta di Piacenza. Sono Salvatore da Cosenza. Vanessa, sei la mia luce. Vabbè. Ciò che penso è molto intenso. Al nuovo buio io sono propenso. Perché dal buio che sono nato, e grazie a lui ho camminato. Luce che si riproduce grazie al buio che la conduce. Nasce dal buio e ci conduce. Sembra banale, ma è reale. To the world, a miracle too. Vorrei riapprezzare Welcome to Paradise, pensando a tutte quelle notti passate insieme sotto le stelle. In questa pazza estate. Ciao Kia, ti amo. Caro Gigi, sono Patrizia da Enna. A Luigi, che da quando è entrato nella mia vita mi ha reso la donna più completa del mondo. Grazie Gigi. Ma di che? Da da da da.